GR24, il sole 24 ore. Arresti per la gambizzazione di Adinolfi, due persone fermate avrebbero agito da sole, nessun legame coi Notav, dice il procuratore Caselli. L'ex capogruppo del PDL in Lazio Fiorito, indagato per peculato, si autosospende, in due anni avrebbe sottratto 735.000 euro al partito. Il Giappone annuncia l'addio al nucleare verso lo spegnimento delle centrali in 30 anni. Vasco Rossi ricoverato ancora a Villalba di Bologna, ma si tratta di controlli di routine, fa sapere l'artista. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione GR24, ben ritrovati. In apertura parliamo dell'operazione di polizia e carabinieri che ha portato all'arresto di due persone accusate di aver gambizzato a maggio l'amministratore delegato di Ansaldo, Adinolfi. Poco fa a Genova la conferenza stampa degli investigatori. Allora andiamo con gli aggiornamenti e con Andrea Ferro da Genova, buongiorno. Buongiorno Alessio, li hanno svegliati ad alba nelle loro abitazioni a Torino, la loro città. Alfredo Cospito, 45 anni, e Nicola Gai, 35, noti da tempo per la loro militanza nell'ambiente anarco-insurrezionalista. Il 7 maggio scorso in via Montello a Genova hanno sparato alle gambe di Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare. Questa è la convinzione della Procura di Genova, dei detective della Digos e dei carabinieri del ROS, che già a luglio ne avevano chiesto l'arresto, ma il GIP non aveva firmato i provvedimenti restrittivi. Stamane il fermo è scattato perché dalle intercettazioni sarebbe emerso che due stavano per fuggire all'estero, pare in Grecia. A loro gli inquirenti erano risaliti attraverso l'analisi delle immagini registrate da alcune telecamere installate nella zona della stazione Brignole, dove dopo l'agguato era stato abbandonato lo scooter. Immagini poi comparate con una serie di elaborazioni grafiche con le foto di Cospito e Gai. Nell'inchiesta risulta indagata a piede libero anche la compagna di Cospito, Anna Beniamino, e perquisizioni stamane sono scattate anche a Bordighera, una delle case della famiglia di Cospito, nella zona del Cuneese e in provincia di Pistoia. Però, ripeto, c'è solo una terza indagata, al momento non ci sono coinvolgimenti di altre persone. I tre non fanno parte del movimento Notav, che come ha chiarito il procuratore di Torino, Giancarlo Caselli, stamane presente alla conferenza stampa tenuta a Palazzo di Giustizia. Ascoltiamo. I soggetti interessati dall'inchiesta, così come l'area cui tali soggetti si riferiscono, manifestano un'ostilità, una diffidenza di fondo, basta vedere il volantino di rivendicazione dell'attentato ad Adinolfi, per quelli che genericamente qualificano come movimenti di ribellione. Con gli estremisti Notav vi sono stati soltanto pochi occasionali episodi di osservazione esterna. Il nome di Alfredo Cospito era noto da tempo agli archivi della Digos nel giugno scorso e insieme alla sua compagna Anna Beniamino era stato coinvolto nell'inchiesta di Perugia sui tentativi di sabotaggio della linea ferroviaria Porte Ancona, e nel 2007 il suo nome era stato tirato in ballo anche per una serie di attentati compiuti nel quartiere torinese della Crocetta. Per il momento da Genova è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Andrea Ferro per questi aggiornamenti e vi ricordo che alle 13.30 nuovi approfondimenti e interviste su questa vicenda. Ricordo la notizia, due arresti per la gambizzazione del dirigente Ansaldo Adinolfi in Italia in controluce con Piera Ceci alle 13.30. E tanto le notizie che arrivavano da Genova e dal Piemonte sono rimbalzate anche al Consiglio dei Ministri di questa mattina. Monti ha ringraziato il Ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri. Andiamo a Roma con Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. E così il Premier Monti si è congratulato con la responsabile del Viminale Anna Maria Cancellieri per il fermo dei presunti autori dell'agguato avvenuto nei confronti di Roberto Adinolfi, amministratore delegato dell'Ansaldo Nucleare. Monti, che durante la mattina è stato impegnato nel Consiglio dei Ministri sul tavolo misure per la difesa del suolo, si è parlato dunque di agricoltura e Monti insieme al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Mario Catania sta presentando in questi minuti il disegno di legge sulla valorizzazione delle aree agricole, di contenimento del del consumo del suolo approvato appunto dal Consiglio dei Ministri. Un provvedimento, ha detto il Premier, che vuole salvare l'Italia dai suoi mali, e cioè salvare dal cemento il terreno agricolo, la cui superficie utile è passata negli ultimi 40 anni dai 18 ai 13 milioni di ettari, un fenomeno dalle proporzioni sempre più preoccupanti. Non si è discusso invece in questa riunione del decreto crescita perché, come ha spiegato ieri il Ministro dello Sviluppo Passera, devono essere aggiunte altre norme. E Monti tra poco incontrerà gli studenti dell'Istituto Morvillo Falcone di Brindisi, comprese le 5 ragazze ferite nel tragico attentato del 19 maggio scorso. Ed ormai tutto. Grazie anche a Alessandra Schepisi. E perquisizioni di tutt'altro genere ci sono state oggi, questa mattina, anche alla sede della Regione Lazio. La vicenda riguarda l'ex capogruppo del PDL Franco Fiorito, indagato per peculato. Sentiamo. I militari della Guardia di Finanza si sono presentati in mattinata negli uffici del Consiglio regionale del Lazio alla Pisana. Su ordine della Procura di Roma stanno acquisendo documenti e materiale utile all'inchiesta sulla gestione dei fondi del PDL che vede indagato l'ex capogruppo Franco Fiorito, conosciuto come Air Batman, un soprannome che gli era stato affibbiato dopo essere caduto da una moto ferma. L'ex sindaco di Anagni è accusato di peculato. Avrebbe dirottato sui suoi conti correnti personali quasi 800.000 euro, soldi pubblici sottratti alle casse del PDL. In 2 anni Fiorito avrebbe maneggiato senza controllo più di 8 milioni di euro. Il suo caso scuote il partito e alimenta polemiche e faide interne. Ieri una riunione con i vertici nazionali si è conclusa con un nulla di fatto. Lui si dice estraneo ai fatti e si è autosospeso, ma da un'indagine interna voluta dal suo successore Francesco Battistoni sarebbero emerse anche altre spese anomale, come l'acquisto di 2 auto, cene a base di ostriche e champagne e soggiorni in alberghi di lusso. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E restiamo a Roma, dove c'è stato questa mattina l'incontro tra il presidente egiziano Morsi e quello italiano Napolitano. Morsi, che è tornato sugli attacchi alle ambasciate americane per le proteste contro un film giudicato blasfemo, ha detto: tutti devono essere contro, anche gli americani, contro tutti i tentativi di provocazione. Ma sentiamo che cosa si sono detti questa mattina i due presidenti con Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Parole dure di condanna per quanto accaduto a Bengasi e contro le ambasciate americane, quelle pronunciate questa mattina al Quirinale dal presidente egiziano Mohamed Morsi. Per l'Egitto, ha detto Morsi, gli assalti alle ambasciate o ai consolati sono assolutamente inaccettabili e abbiamo l'obbligo di difendere missioni diplomatiche e turisti. L'Islam, ha proseguito il presidente egiziano, rispetta le religioni altrui e la realizzazione di ogni libertà, anche la libertà del credo, perché non vi può essere costrizione di religione. Quanto al film anti-Islam, Morsi ha però aggiunto: ci aspettiamo che tutti, Stati Uniti compresi, siano contro tali tentativi perniciosi di provocazione. Quindi l'intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, la cooperazione economica, ha detto il Capo dello Stato, può dare risposte anche a fenomeni come quelli avvenuti nei giorni scorsi in Libia, a risposte terroristiche irrazionali, ha spiegato ancora Napolitano, di fronte a fenomeni deprecabili di offesa per qualsiasi credo religioso. Il Presidente egiziano, lo ricordiamo, ha incontrato ieri sera il Premier Monti, sono stati confermati gli ottimi rapporti anche economici tra Roma e il Cairo. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. E intanto in Libia, all'aeroporto di Bengasi, nella notte è stato sospeso il traffico aereo per ragioni di sicurezza. E dopo quello che è accaduto a Bengasi, ma anche al Cairo, soprattutto tra Egitto e Stati Uniti, si afferma l'urgenza di un dialogo tra i leader. Che il rapporto tra Washington e il Cairo della Fratellanza Musulmana non sarebbe stato facile era scontato, ma ora che il sangue americano è stato nuovamente versato in nome della religione, ecco che il rapporto tutto da costruire tra i rais di Washington e del Cairo torna ad affermarsi con urgenza. Obama e Morsi non sono né nemici né alleati, come ha detto il primo, eppure sembrano utili, forse addirittura indispensabili, l'uno all'altro. Certo, non si può pretendere che il leader del Cairo condivida la frustrazione di chi oggi in Occidente si dichiara tradito in nome del sostegno alla primavera araba. Né si può pensare che Obama e la sua gente siano lo sfogo tollerato di tutti i rancori, le invidie, i fallimenti dell'élite del mondo arabo. Gli interessi legittimi, al di là di ogni retorica, ci sono per entrambi e la distanza tra i capi non è tale perché non si possa riprendere un dialogo di costruzione senza il quale l'Egitto affogherà nel suo boom demografico e gli Stati Uniti si vedranno condannati alla paura. Obama nel 2009 si è spinto con coraggio nel cuore del Cairo per un discorso di apertura e buonsenso che apriva una porta al dialogo, un'offerta che oggi sembra lontana ma che invece andrebbe colta e rinnovata da entrambe le parti. Gigi Donelli, GR24, Sole 24 Ore. E torniamo alla cronaca, perché di questioni internazionali ha parlato anche il Papa mentre era in volo diretto in Libano. Benedetto XVI, che è atterrato poco fa a Beirut per una visita nel paese. Allora ci colleghiamo con l'inviato del Sole 24 Ore, Carlo Marroni, a Beirut. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Il Papa proprio in questo momento all'aeroporto di Beirut sta pronunciando il suo primo discorso di questa visita di 3 giorni, dove incontrerà tutti i leader religiosi dell'area, sia cristiani, musulmani ed ebrei, e soprattutto anche le autorità politiche, proprio come un messaggio di pace in un viaggio che hanno voluto sottolineare più volte al Vaticano ha un contenuto religioso e non politico. Tuttavia, durante il volo, nella consueta conferenza stampa, il Papa ha lanciato un messaggio importante per la Siria, che naturalmente è molto importante proprio per la vicinanza Libano e per l'influenza che la Siria ha su queste terre, e ha chiesto il Papa si cessi l'importazione di armi e quindi il traffico di armi che alimenta naturalmente in Siria una guerra in corso da molti mesi. E un altro messaggio è all'indomani della strage di Bengasi, ha risposto indirettamente alla domanda, il Papa ha detto che questo viaggio l'ha voluto confermare proprio alla luce di quello che è accaduto in quelle terre in questi giorni, quindi un messaggio di pace rivolto a tutti i popoli di queste terre, in particolare anche, però, ha detto, la convivenza tra cristiani e musulmani. Prima di partire il Papa, nel consueto anche questo telegramma che ha inviato al Presidente Napolitano, ha detto che l'Italia deve affrontare con serenità le sfide che lo attendono questo momento di crisi. E per ora da Beirut è tutto, linea allo studio. Grazie dunque a Carlo Marroni da Beirut. Avete sentito dunque queste le prime parole del Papa appena arrivato in Libano. E adesso invece facciamo un salto sui mercati finanziari. Per una volta parliamo delle borse anche quando vanno bene, altrimenti, Deborah Rosciani, buongiorno, facciamo solo la cronaca negativa. Esattamente, no. Altrimenti rischio di restare senza lavoro per qualche minuto nel corso della giornata. Allora, che cosa è successo oggi sui mercati? Succede che la Federal Reserve ha lanciato, la banca centrale americana, quel nuovo maxi piano di stimolo monetario che il mercato auspicava da tempo. Si tratta di nuovi acquisti di bond, di obbligazioni, in questo caso sul mercato dei mutui ipotecari, al ritmo di 40 miliardi di dollari al mese. E naturalmente questo appunto è proprio l'aspetto del quantitative easing lanciato ieri che viene maggiormente apprezzato dagli investitori. Ieri sera la Federal Reserve ha anche fatto sapere che i tassi così bassi tra lo 0 e lo 0,25% rimarranno su questo livello almeno fino alla metà del 2015, e quindi su questa prospettiva borse in forte rialzo. Bene ieri sera Wall Street, molto bene stamattina anche l'Asia, molto bene stamattina anche l'Europa. Tra l'altro questa situazione ha portato, almeno secondo le interpretazioni degli operatori, anche a una nuova crescita del prezzo del petrolio. Il greggio si trova sui livelli più alti da maggio scorso, con il WTI, il greggio di riferimento americano, che tratta a quota $100 al barile, mentre il Brent del Mare del Nord si continua ad apprezzare, adesso vale $117. L'euro sul dollaro si è spinto fino a quota 1,3112 in questo momento, quindi balzando enormemente. Stamattina era sui massimi da 4 mesi a questa parte, probabilmente ha già superato questo livello. Le borse europee: Milano più 2,40% in questo momento sul FTSE MIB, Francoforte più 1,54%, Parigi più 2,13%, Londra più 1,66%. Bene tutti i titoli industriali, questa è la giornata di oggi, per ora è tutto. Grazie Deborah, e sembra proprio essere lo scenario europeo a pesare sul futuro dell'Italia in questo momento e del governo Monti in particolare. Il punto di Stefano Folli. Per ora l'unica cosa certa è che l'Italia deve proseguire sulla via del risanamento economico, come ripete la Banca Centrale Europea. E per il resto i punti interrogativi restano tali. Dalla politica non vengono lumi su come sarà governato il paese dopo le elezioni. Non è dato sapere nulla, nemmeno, come è noto, quale sarà la legge elettorale con cui voteremo. E del resto quel poco che si sa mette apprensione. Monti stesso è sempre più intenzionato a farsi da parte alla fine del mandato. E si va verso un imbuto istituzionale pericoloso, con la legislatura che potrebbe concludersi l'anno 21 quasi in coincidenza con la scadenza del mandato di Napolitano. È un intreccio senza precedenti e un altro problema politico e istituzionale di non poco conto. Sul piano europeo la situazione sta migliorando per quanto riguarda le disavventure della moneta unica, ma sul piano domestico l'Italia sta scivolando quasi senza accorgersene verso una tempesta politica perfetta. E dunque, come avete sentito dai titoli, il Giappone verso l'addio definitivo al nucleare. È passato un anno e mezzo esatto dall'incidente di Fukushima e ora il governo giapponese, su pressione dell'opinione pubblica, ha preso la sua decisione. Rinuncerà all'energia nucleare. Non subito, ma entro gli anni 30 del 2000, evitando di costruire nuove centrali e applicando strettamente il limite di 40 anni all'operatività dei reattori esistenti. La decisione del governo del premier Noda rappresenta un'inversione netta rispetto al precedente piano energetico, che contemplava di portare oltre il 50% la percentuale di energia prodotta con il nucleare. La quota era del 30% prima di Fukushima ed è poi crollata a zero a maggio, quando tutti i 50 reattori sono stati spenti per precauzione o manutenzione, ed è risalita in modo poco significativo con la riapertura, tra le polemiche, di due reattori. Il Giappone è riuscito comunque a passare quest'ultima calda estate senza blackout, grazie a maggiori importazioni di gas e petrolio e a risparmi energetici. La decisione di Tokyo segue quella di altri paesi come la Germania e la Svizzera, che hanno annunciato la progressiva fuoriuscita dal nucleare accompagnata a una forte spinta verso le energie alternative. Le organizzazioni ambientaliste come Greenpeace hanno salutato con favore la mossa di Tokyo, ma anche con cautela, perché avvertono che occorre vigilanza soprattutto per evitare la riapertura provvisoria di nuovi reattori. Stefano Carrer, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo del record poco invidiabile di Roma rispetto alle altre capitali europee. Parliamo del numero di auto di scorta. È Roma ad aggiudicarsi il primato europeo delle scorte. Ogni giorno sono 120 le pattuglie che la Polizia di Stato organizza per altrettante personalità italiane, impiegando anche più di 1000 uomini. Il dato emerge da uno studio del SILP-CGL, il sindacato della Polizia. Guardando alle capitali europee, a Madrid le scorte sono 60, a Parigi e Londra una quarantina, a Berlino soltanto 13, dunque a Roma sono mediamente il triplo. Interessante ancora un'altra stima del sindacato, che ha calcolato quante auto sono invece impiegate per la sicurezza della capitale italiana. La conclusione è amara, spesso sono in numero inferiore a quelle impiegate per le scorte. Facendo due conti poi si scopre che una scorta di primo livello ci costa quasi 100.000 euro l'anno. Il vero nervo scoperto, tuttavia, sono le scorte di tutela, che prevedono un agente e un autista. Sono taxi di Stato e poco servono alla sicurezza, ha commentato il segretario generale Gianni Ciotti del SILP-CGL. Luisa Perona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Calcio e gossip è un binomio che evidentemente continua a fare notizie. Andiamo in Germania, nella Bundesliga, dove un calciatore ha rivelato la sua omosessualità. È un outing a metà, ma sufficiente a sollevare un vespaio, perché l'omosessualità nel calcio è ancora un tema ad alta tensione. Una parola è poco, due sono troppe, soprattutto in un mondo dove la facciata vive di logori cliché, veline, belloni, uomini che non devono chiedere mai. Comunque, per la prima volta nel campionato tedesco un calciatore ha parlato della sua omosessualità. Lo ha fatto però in forma anonima, per paura della reazione dei tifosi. «Se la mia sessualità diventasse pubblica, ha detto, non mi sentirei sicuro. Come gioco diventerebbe irrilevante e tutti vorrebbero sapere cosa faccio sotto le coperte. Apriti o cielo, chi dice bravo, hai fatto bene, e chi lo accusa di essere un codardo, di gettare il sasso e nascondere la mano». A sostenere l'audace, una sorprendente Angela Merkel. Chiunque raccolga la forza e il coraggio per rivelare la sua omosessualità deve sapere che vive in un paese in cui non deve aver paura di farlo. Ha tuonato la cancelliera, che come noto segue tutte le partite della nazionale. L'interessato, spaventato dal clamore, ha detto che i tempi sono prematuri per rompere il tabù. Difficile dargli torto. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nuovo ricovero per Vasco Rossi, ma per il suo staff si tratta solo di controlli di routine. Normali controlli di routine, il ricovero era già previsto. Così Tania Sachs, la portavoce di Vasco Rossi, ha motivato la presenza del rocker nella clinica privata Villalba di Bologna. Ed è stato anche ribadito che l'artista non è stato trasportato in clinica in elisoccorso, ma ha viaggiato sulla sua macchina guidata dall'autista, il quale dall'albergo di Castellaneta Marina in provincia di Taranto, dove si trovava in vacanza, lo ha portato a Bologna. I controlli, secondo la portavoce, sono normale routine per Vasco Rossi, che li fa ogni 2 o 3 mesi, da più di un anno a questa parte, a causa del batterio killer che lo aveva colpito l'estate scorsa. Lo staff del Blasco invita stampa e televisioni a non diffondere notizie false ed allarmanti sulle sue condizioni di salute e a rispettare la sua privacy. Ai fan preoccupati la promessa di dare nei prossimi giorni tutte le informazioni necessarie per rassicurarli. Il direttore sanitario della clinica Villalba, Paolo Guelfi, ha liquidato i cronisti solo con una battuta: «Non abbiamo l'eliporto, mi dispiace, non posso dire nient'altro». E a proposito delle condizioni di salute del Blasco ha aggiunto solo: forse le daremo più tardi in serata. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione. Alessio Maurizio in studio e Carmelo Lauricella in regia vi augurano buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola per la seconda edizione del giorno del GR Spettacoli. Vasco Rossi ricoverato di nuovo a Villalba, la clinica privata sui Colli Bolognesi, dove la scorsa estate era stato ricoverato per un'osteomielite al torace e una endocardite. Secondo la sua portavoce Tania Sachs, il rocker sarebbe sottoposto a controlli di normale routine. Il suo ricovero era già previsto. Non è stato trasportato in elisoccorso, come era stato detto, ma ha viaggiato in auto. Il cinema, non volevamo venire qui, Palermo non merita il nostro film. Lo dice Miriam Rizzo, la sceneggiatrice del film di Daniele Cipri, è stato il figlio alla presentazione nel capoluogo siciliano. Abbiamo ricevuto solo porte chiuse in faccia per oltre un anno, ha detto Cipri, e per questo abbiamo deciso di lasciare la città e poter fare serenamente il nostro lavoro lontano da qui. L'attrice americana Kathy Bates, 64 anni e premio Oscar nel 91 per Misery, ha reso noto su Twitter di aver subito una doppia mastectomia a seguito di un cancro al seno. Nel maggio scorso era stata annullata la serie TV di cui era protagonista, Harry's Law. Da allora l'attrice non aveva dato più notizie di sé sul social network. Verrà presentato martedì a Milano About Face, dietro il volto di una top model, film del grande fotografo Timothy Greenfield Sanders, presentato al Sundance Festival. Il film presenta alcune leggende della moda dagli anni 40 agli 80 per riflettere sulla vita e la bellezza. Tra le icone del film, Carol Alt, simbolo degli anni 80. Ma cosa fa Carol oggi? Mi piace il mio lavoro, soprattutto che sono appassionante del mio lavoro. Io ho detto tante volte alle donne, quando tu non sei appassionante del tuo lavoro, fermati. Quando tu non piaci e arrivi sul set con un sorriso, fermati. Io ho fatto tante cose, cantatore, attrice, modella, scrittore, entrepreneur, ho fatto business. La sola cosa io chiederei al Dio, voglio... Continua. Arriverà anche nelle sale britanniche reality di Matteo Garrone, presentato al Toronto Film Festival dopo il Gran Premio della giuria a Cannes. La pellicola aveva già trovato distribuzione anche in Canada e negli Stati Uniti. I ministri dell'interno Anna Maria Cancellieri, del lavoro Elsa Fornero, dell'istruzione Francesco Profumo e la presidente della RAI Anna Maria Tarantola e il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso domenica 16 terranno a battesimo la 64esima edizione del PRI Italia, il festival internazionale che premia le migliori produzioni delle emittenti radiotelevisive mondiali. Il segretario generale Giovanna Milella. Grandi novità, un'apertura nel segno dei tempi, cioè intitolata la prima giornata La cultura della legalità, e quindi è un segno proprio che vogliamo rendere alla cultura della legalità come base di tutte le culture. Sono 300 programmi da tutto il mondo, se uno viene lì alle postazioni video on demand o audio on demand può vedere di tutto, ecco, dalle violenze, le sopraffazioni, le liberazioni, l'arte, lo spettacolo, il teatro. Per questo si chiama Il mondo allo specchio, l'edizione. E per il GR Spettacoli è tutto da Marta Cagnola, ancora l'augurio di una buona giornata.